La tessera in essenza fine, tutti aspettano le ferie a fuggire la fine. Il cielo azzurro non può che portare allegria e felicità, e la sera si riesce, ma quanta voglia di libertà. Mi mette nostalgia la puzza di miscela dei motorini, e che tristezza le voci allegre dei bambini. In questa situazione io non riesco più a stare, perché sto male ma non ho un posto in cui andare. Non sopporto queste giornate sprecate, per questo vorrei l'inverno in questa calda estate. Vorrei avere nessun cosa senza calore, vorrei cielo bianco, grigio e nero come il mio cuore. Non sopporto più niente, non sopporto nessuno, vorrei che tutto sparisse, avvolto nel buio. Sono condannato e queste ragioni devo sentire. Ferie stupende e felici che io vorrei sparire, e ogni giorno soffocante in questa città. Sono stufo di queste giornate stupende sprecate, per questo vorrei un inverno in questa calda estate. Vorrei dormire e andare in letargo a tempo indefinito, e svegliarmi quando tutto il dolore per sempre sarà sparito. Faccio finta che sia inverno per non soffrire più. Se tremo do la colpa al freddo, non perché sono giù. Vorrei tenere da parte quest'estate per quando ne avrò bisogno, e ora vorrei un inverno freddo e triste, vorrei un brutto sogno. Tornate fredde, buie, utili giornate, come nei pianeti, piogge gelate. Almeno dovrei trovare scuse per non uscire, e non mi dovrei per forza divertire. Per questo vorrei l'inverno in questa calda estate. Non sopporto più queste giornate sprecate. Non voglio vedere le famiglie felici di coda sull'autostrada bloccata, e la gente in spiaggia che prende il sole rilassata. Un futuro sempre più certo, sempre più sicuro. Se non posso vivere, non voglio solo, voglio il cielo scuro. Voglio solo l'estate, quando cambierà il vento. Voglio solo l'estate, solo se sarò ancora contento. Voglio solo l'estate, quando non ci sarà più dolore. Voglio solo l'estate, se ci sarà l'amore. Voglio far passare prima l'inverno, guai, perché d'estate.